festeggia nelle piazze, si festeggia nelle piazze in Capidano. Era nata come un fulmine, era nata come un fulmine a ciel sereno. Per i pescatori era una cuccagna. Solo un uomo fu per lei, solo un uomo fu per lei, cuore fiamma. Del paesello dove tutto prende il volo e la parola corre, corre come un treno. Si innamorò lei di un grande uomo che la lasciò con un bambino in mezzo al fieno. In un tempio dove l'uomo non ha fiato rifletteva tra i coralli il suo bel viso. La chiamavano la tigre di Sardana, ma per molti lei era una puttana. Sole stelle lei ballava, sole stelle lei ballava sullo scoglio. Navigava dando amore a suo figlio. Seminava dentro al cuore girasoli. Era il campo di tanti fiori. Alle dita aveva anelli d'oro verde, vasi ampolle di profumi sulla pelle. Abitavano a due passi dai suoi occhi tanti principi, tanti rospi. A strapiombo sulle rocce tra la schiuma, il suo corpo era più bello della luna. Bella bruna, vita bella, bella orata, madre bella, bella donna, vita ingrata. Poi un bel giorno lei partì per la città. Non aveva neanche un soldo per mangiare. Cominciò a lavorare come un cane. Per due soldi come un mulo a faticare. Ed il mondo è più crudele con i giusti. Ti abbandona il tuo destino in mezzo ai porci. E la vita che l'amore ti ha donato, tutta sola nel dolore l'hai difeso. Contro venti mari monti tu regina, senza principi da sola nella strada. Con in braccio la tua vita e il tuo gioiello, madre stella, quanta pioggia sul tuo ombrello. Non sarei di certo qui a raccontarlo. Sono tuo figlio, proprio quello a cui dato tutto il tuo amore, tutto il cielo, tutto il creato. Ancora oggi nella pianura campidana tutti parlano della tigre di Sardana, ma nessuno potrà pensarla senza amore. E il tuo viso, madre bella, bacia il sole. Si festeggia nelle piazze in Campidano. Era nata come un fulmine a ciel sereno. Per i pescatori era una cuccagna. Solo un uomo fu per lei, cuore fiamma. Oh.